2024 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi ci aiuta Carmelo Lauricella in regia, questa è 2024, la puntata del 22 settembre 2012, benvenuti o bentornati, questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate su Facebook, Twitter oppure via email, ma come sempre siamo in diretta, allora potete chiamarci per qualsiasi considerazione, domanda e più tardi anche per un premio. Sapete che già dalla nostra prima puntata della nostra stagione vi regaliamo qualche cosa, ve lo spiegheremo più tardi. Numero verde per chiamarci 800240024. Partiamo da una notizia che tra qualche anno probabilmente leggeremo anche nei libri di storia, perché è un conto se le cose le diciamo a 2024, un conto se le dice e le scrive soprattutto l'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, che ha pubblicato la relazione annuale, e una delle tendenze che oramai commentiamo da tempo è diventata ufficiale. Allora, lo scorso anno gli utenti italiani di telefonia mobile hanno speso di più per navigare su internet dal cellulare, che si dice poi smartphone oggi, che per inviare SMS. Il sorpasso è storico, potremmo dire, e considerando anche che i costi di navigazione in mobilità, cioè le tariffe dati, si sono abbassate negli ultimi anni, beh, questo segnala un cambiamento nell'uso del cellulare, che sempre più viene utilizzato per accedere al web e ad internet in generale. Nel 2011 i ricavi da SMS sono stati pari a 2,3 miliardi, in rialzo dell'1,5%, mentre quelli relativi a internet in mobilità sono saliti del 17,7% a 2,4 miliardi. A conferma di questo trend, a metà di quest'anno c'è stato un altro sorpasso. Secondo la società di ricerca GFK, sono stati venduti più smartphone che telefonini classici, cioè quelli senza sistema operativo, che quindi non hanno la possibilità di installare le applicazioni e quindi non hanno internet. A proposito di telefonia mobile, è operativo da poche ore un nuovo operatore di telefonia cellulare, si chiama Beep Mobile, quindi si dice così all'italiana, non Beep Mobile, e Fabrizio Bona è l'amministratore delegato nonché il fondatore. Beh, noi ci stiamo posizionando come il primo operatore low cost, ovvero con una tariffa molto competitiva, con una proposizione molto semplice e chiara per il cliente, perché nel mercato della telefonia mobile, diciamo, non sempre è facile sapere con chiarezza quello che si sta comprando e scegliere fra le varie offerte. Ecco, a tal proposito, visto che voi siete necessariamente un operatore virtuale, quindi l'infrastruttura, cioè le antenne, sono quelle di H3G, quindi che è conosciuta con il marchio 3, e voi invece offrite le vostre SIM, il vostro servizio, ma l'infrastruttura è un'altra, anche se poi al cliente finale potrebbe importar poco e non se ne accorge nemmeno. Però proprio perché utilizzate le infrastrutture, comprate il traffico da un altro operatore, i margini immagino siano limitati, addirittura direi se la tariffa che voi proponete fosse troppo bassa, l'operatore dal quale comprate traffico potrebbe addirittura non essere tanto contento. Ma guardi, le rispondo innanzitutto sulla prima parte della domanda, che è quella della, diciamo, della struttura di costi. Un operatore virtuale, innanzitutto, come lei giustamente diceva, per il cliente finale è assolutamente trasparente, nel senso che poi il cliente finale vede Beep nel proprio telefonino. Ci sono casi di grande successo di operatori virtuali a livello mondiale come Virgin, che sono percepiti come veri e propri operatori, ed il nostro obiettivo è farci percepire come un vero e proprio operatore, quale siamo tra l'altro, perché i servizi e la parte di information technology è gestita direttamente da noi. Cambia il modello di business, nel senso che un operatore di rete fa un investimento di parecchi miliardi di euro per avere la rete e di miliardi di euro anche per mantenerla. Noi paghiamo un traffico a livello variabile, cioè secondo del traffico appunto che consumiamo, quindi cambia totalmente il modello di business, non più un ammortamento di costi fissi, ma un approccio legato a dei costi variabili. Relativamente alla seconda parte, l'operatore di rete, come H3G nel nostro caso, opera in un mercato totalmente diverso rispetto al nostro, che è un mercato mass market prepagato, e quindi non c'è rischio di cannibalizzazione, per cui può essere soltanto contento se ne facciamo dei bei ricavi. Senta, alcuni hanno commentato la vostra tariffa, perché in questo caso parliamo di una tariffa, ce n'è una sola, e quindi dal lato della semplicità non c'è dubbio che sia semplice da capire. 3 centesimi al minuto sicuramente, insomma, molto poco. Alcuni hanno detto, lo scatto alla risposta era una cosa che potevate anche evitare, era proprio necessario? Sì, lo scatto alla risposta, mi rendo conto che non sempre è molto simpatico, ma praticamente è l'unico elemento che ci dà un po' di redditività su una tariffa molto molto aggressiva, nel senso che se poi noi compariamo la stessa tariffa con quella degli altri gestori che hanno praticamente la stessa, 12 centesimi al minuto, anche in quel caso si paga uno scatto alla risposta, in 2 casi su 3 più alto, quindi 18 centesimi al posto di 16, e la tariffazione ha la stessa modalità di scatti a 30 secondi, quindi comparando perfettamente le offerte noi abbiamo un costo al minuto del 75% più basso rispetto alle tariffe basse degli altri gestori. Voi avete degli obiettivi ad un anno e anche a 4 o 5 anni, quali sono? 1 milione di clienti entro l'estate prossima e 5 milioni di clienti entro 4 anni. E in questo modo andate in attivo? Noi andiamo in attivo con 700.000 clienti che contiamo di raggiungere nella primavera del 2013. Che sono obiettivi, insomma, piuttosto ambiziosi. Molto ambiziosi, perché sono obiettivi di un operatore importante. Consideri però che noi stiamo investendo tantissimo in pubblicità, in distribuzione, anche, diciamo, un investimento importante per riuscire a raggiungere una struttura di costi tale che ci permetta di mantenere delle tariffe così basse. Questa è in sintesi Bip Mobile, e come avete capito la fonte principale di ricavi è lo scatto alla risposta. Naturalmente in rete, come capita sempre quando parte una nuova iniziativa di qualsiasi genere, ci sono stati parecchi commenti, molti delusi su queste tariffe, ma poi le tariffe sono anche una cosa personale, quindi poi ognuno deciderà se queste sono tariffe basse, competitive, oppure no, e sarà il mercato a decidere se questo nuovo operatore avrà successo oppure no. Comunque, se fate i conti, si capisce che la tariffa al minuto di 3 centesimi è quasi il limite massimo raggiungibile oggi per via delle famose tariffe di terminazione stabilite dall'Agicom, cioè il pedaggio che un operatore paga quando chiama un altro operatore per transitare, cioè per far terminare la chiamata sull'altra rete. L'anno scorso c'è stata una polemica a livello nazionale perché l'autority ha deciso un programma di taglio di queste tariffe. I consumatori, alcune associazioni, alcune aziende non erano soddisfatte, quindi se ne è parlato molto. Comunque oggi per chiamare TIM, Vodafone e Wind si pagano 2,5 centesimi, 3,5 invece per chiamare un telefono 3, che essendo l'ultima arrivata gode ancora di questo vantaggio. Queste tariffe si sono già abbassate dal 1 luglio 2012, si abbasseranno ulteriormente dal 1 gennaio e di nuovo dal 1 luglio 2013, quando tutti gli operatori pagheranno come tariffa di terminazione mobile 0,98 centesimi al minuto, quindi praticamente un centesimo. Questo abbassamento dovrebbe fare abbassare a sua volta tutte le tariffe, dovrebbe, poi vedremo se sarà vero, parlando della voce. E Bona ci ha anticipato che questo taglio dovrebbe, anche in questo caso utilizziamo il condizionale, riguardare anche Bip Mobile. Allora, inciderà sicuramente, perché per noi questo è l'elemento critico, diciamo che se non ci fosse stato la riduzione delle tariffe di terminazione Bip non sarebbe nata. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la marginalità inalterata, e quindi quello di utilizzare ulteriori riduzioni di terminazione e o efficienza dell'azienda per essere ancora più competitivi e abbassare i costi per il cliente finale, le tariffe per il cliente finale. Quindi diciamo che ci possiamo aspettare delle novità a partire già da gennaio prossimo? Io penso di sì, perché i nostri obiettivi sono ambiziosi e quindi, diciamo, i piani per raggiungerli sono di una forte aggressività commerciale. Sono le 15:42 minuti, questo è 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800240024, potete chiamarci per qualsiasi motivo, vostri commenti o le vostre domande. Una cosa positiva di Bip Mobile è che invece di scegliere i soliti comici, le modelle per fare pubblicità, cosa spesso insopportabile, beh, ha scelto quel simpaticone di Willy il Coyote e anche lo struzzo che frega spesso Willy il Coyote. Bene, saluto Domenico Di Mola, che è il nostro ospite principale nella puntata di oggi. Benvenuto 2024, avvicinati al microfono. Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie ad Enrico. Domenico Di Mola l'abbiamo incontrato già un anno fa, ci è piaciuto molto quello che ci ha raccontato, anche perché il suo mestiere è molto affascinante, anche se complicato. Infatti io ti ho detto: guarda che dobbiamo parlare in modo semplice. Tu lavori da circa un anno negli Stati Uniti, a San Francisco, sei il CTO, quindi il Chief Technology Officer, il capo delle tecnologie di un'azienda che si occupa di fotonica. Sì, di apparati per le telecomunicazioni in fibra ottica. Che cosa fate fotonica, sostanzialmente? Sviluppiamo apparati che entrano nel cuore delle reti in fibra ottica e che consentono di trasportare, trasformare e multiplexare, demultiplexare, quindi dividere, traffico ad alta capacità. Parliamo di terabit. Terabit, quindi, per adesso, ma per adesso, tra un po' anche ancora. Diciamo oggi parliamo di terabit, tu hai parlato di traffico che cresce, parleremo di petabit anche domani. Esatto, esatto. Domenico Di Mola sarà con noi nella seconda parte di 2024, quindi per parlare anche con lui, per sentire il suo parere su alcune evoluzioni della rete. Stiamo parlando proprio di rete, di banda larga, di broadband, di fibra ottica. Beh, potete chiamare il nostro numero verde oppure gli sms 349-238-6666. Tra poco le nostre Digital News. 2024. Abbiamo parlato di operatori mobili virtuali, cioè quelli che non hanno la propria rete ma comprano traffico dai quattro operatori principali. Allora, ne è nato uno nuovo, ma ce ne sono tantissimi. Adesso, giusto per citare i più famosi, ci sono quelli dei supermercati, cioè A-Mobile, che è Auchan, poi c'è Coop Voce, Carrefour Uno Mobile, poi c'è Tiscali Mobile, Poste Mobile, Noverca, Fastweb, che è anche la offerta di telefonia mobile, Erg Mobile e BT Mobile. Li dico tutti all'italiana. Adesso ospitiamo Stefano Parisi, che è presidente di Confindustria Digitale, perché questa settimana Confindustria Digitale ha espresso una preoccupazione riguardo alla agenda digitale italiana. Allora, visto che è una preoccupazione che condividiamo, vabbè, oltre che condividerla è anche nostro dovere di cronaca registrare quello che Confindustria Digitale dice, così come qualsiasi altra associazione importante nel paese, ma perché è preoccupata Confindustria Digitale di questo arrivo, che ormai effettivamente stiamo attendendo da molto tempo, dell'agenda digitale? Stefano Parisi. Ma soprattutto sul ritardo, perché il tema dell'agenda digitale è entrato veramente nell'attenzione del governo intorno a primavera. Da allora è stato fatto un grosso lavoro in collaborazione con le industrie, le aziende che sono aderiscono a Confindustria Digitale, ma non solo, insomma con tutto il mondo che gira un po' intorno al tema dell'economia digitale. E è stato fatto un grosso lavoro e si è stata anche prodotte delle norme, dei rapporti interessanti che possono effettivamente essere una grande svolta per il nostro paese, per portare crescita, aumenti di produttività, trasparenza, opportunità di lavoro nuove, insomma è una grande occasione. E però stiamo vedendo che registriamo continui rinvii, immagino dovuti a dinamiche all'interno del governo, ma soprattutto all'interno delle amministrazioni, che potrebbero presagire a qualche scoglio, e quindi questo ci preoccupa, insomma, ecco. Quindi noi sollecitiamo e vorremmo da un lato fare in modo che si acceleri il processo decisionale, anche perché l'implementazione di tutte queste misure non sarà una cosa breve, e dall'altro che si difendano un pochettino le norme e le misure che sono oggi previste in questo provvedimento, altrimenti rischiamo veramente di non dare nessuna efficacia all'agenda digitale in Italia, insomma. È un ritardo politico o un ritardo burocratico, perché stiamo parlando anche di norme che impattano sulla vita, sui meccanismi dei ministeri della pubblica amministrazione, in alcuni casi anche norme che saranno complicate da attuare? Sì, ma guardi, non credo sia tanto un ritardo politico, perché i due partiti di maggioranza, cioè il PDL e il PD, hanno approvato alla fine di luglio un provvedimento bipartisan su questo tema. E questo provvedimento è gran parte preso nel provvedimento che farà il governo. E in più all'interno del governo tra ministeri non mi pare che ci sia nessun problema. Ho paura che ci siano dei temi oggettivi, e questi sono un po' da affrontare relativamente alle coperture, e questi si comprendono, ma che ci siano anche dei problemi invece più, appunto, come diceva lei, di burocratici, perché effettivamente quando vogliamo fare la nuova pubblica amministrazione integrata e portare i servizi alla pubblica amministrazione sul digitale, dobbiamo fare in modo che le pubbliche amministrazioni abbiano una uniche banche dati, usino il cloud, abbiano una maggiore integrazione tra di loro, e purtroppo ci sono ancora ambienti nella pubblica amministrazione che considerano che l'informazione è un potere, che quindi fanno fatica ad integrare i vari sistemi informativi, ma purtroppo ancora oggi noi siamo, come cittadini, siamo noi il vettore dell'informazione all'interno della pubblica amministrazione. Quando noi dobbiamo fare un cambio di residenza, di dove siamo residenti, qual è il nostro stato di famiglia e se siamo in vita o no nella pubblica amministrazione, quell'informazione già c'è, però siamo noi costretti a prendere un certificato di carta e a portarlo in un'altra amministrazione. E invece bisogna fare in modo che le amministrazioni si parlino da sole e rendano più facile e più veloce la vita ai cittadini, alle imprese, ma anche a se stesse poi, perché ovviamente tutto questo comporterebbe una maggiore efficienza e una potente riduzione dei costi nell'amministrazione pubblica. Certo, poi quella famosa competitività e produttività, chiaramente anche questi temi avrebbero un impatto su questo. Assolutamente, ma anche la spesa, anche lo spending review. Quando parliamo di spending review, io non credo che si possa far tanto inseguendo le auto blu. Sì, sicuramente si può fare, soprattutto dal punto di vista del costume, però se vogliamo i risparmi veri dobbiamo mettere tecnologie, cioè laddove ci sono processi cartacei, strutture organizzative obsolete, l'IT, l'organizzazione, l'informatica può portare a dei profondi cambiamenti. Questo è successo in tutte le aziende di servizi industriali italiane, perché non può succedere anche alla pubblica amministrazione italiana, insomma. Senta, a proposito di tempi, voi credete che possa andare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, venerdì 28, questo provvedimento? Sì, ci dicono che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri il venerdì 28, però non lo so, hanno dato anche da altre date precedenti. Sì. Speriamo che questo sia effettivamente vero. La nostra preoccupazione è che questa norma, per essere implementata, ha bisogno innanzitutto di dai nostri conti più di 50 provvedimenti ministeriali o amministrativi a cui sono demandate determinate implementazioni nella norma stessa, e questo richiede tempo. Poi bisogna mettere in piedi questa agenzia per l'Italia digitale, che non esiste, quindi bisogna nominare un direttore e metterla in piedi. Il governo credo che tra febbraio e marzo finisca il suo lavoro. Rischiamo di arrivare a fine legislatura con un'opera incompiuta o appena abbozzata, e col rischio che poi dopo le elezioni ci sia qualcuno che cerca di tornare indietro, insomma, ecco. Questa è la nostra preoccupazione, non è che un mese prima o un mese dopo cambia, il problema è che c'è pochissimo tempo, questo governo ha molto poco tempo davanti a sé per rendere operative le norme. I risultati non sono le leggi, i risultati sono quando queste si trasformano in atti concreti, insomma, ecco, non sì. È la legge il risultato è quando cambiamo l'Italia, insomma, quando cambiamo la pubblica amministrazione, la rendiamo più efficiente, e per far questo serve tempo, insomma. Sì, fa bene ricordarlo, infatti Sole 24 Ore regolarmente pubblica i mancati decreti attuativi che devono essere approvati, quelli effettivamente, come lei ci ricorda, sono poi quello che fa passare dalla legge all'operatività. Senta, c'è un altro grande dibattito che naturalmente si lega e tocca anche il provvedimento sull'agenda digitale, questo famoso decreto Digitalia, perché in questo provvedimento dovrebbe esserci una parte anche che guarda la riduzione del digital divide, alla diffusione di internet, però l'altro grande dibattito è come facciamo a guardare al futuro, prepararci al futuro per costruire un network di prossima generazione in fibra ottica, quindi un dibattito sicuramente molto complesso tra alcuni operatori. La vostra o la sua idea è che da questo punto di vista si possa fare un passo in avanti anche senza la mano del governo, la mano pubblica, perché naturalmente ci sono alcuni operatori che, se volessero, potrebbero dare una spinta in questa direzione. Sì, assolutamente sì, si può fare anche senza mano pubblica. La mano pubblica può essere utile per accelerare certi processi in alcune aree che sono veramente, come si chiamano, a fallimento di mercato, dove cioè l'investimento non ha ritorno. Però se mettiamo un attimo in ordine le cose, probabilmente si capisce che si può fare molto. Innanzitutto c'è la famosa LTE, la famosa rete di quarta generazione mobile, che è una rete molto potente dal punto di vista della larghezza di banda e che porterà internet ovunque. E questa sarà proprio perfetta per le aree del digital divide, perché essendo una rete mobile a larga banda, ha la possibilità nelle aree a bassa densità di popolazione di essere uno strumento straordinario per il collegamento internet e in più anche meno costoso, perché una cosa è portare la fibra in cima alla montagna, una cosa è portare un'antenna con dei ponti radio che la raggiungono, quindi può avere un'efficacia molto maggiore e risolvere in quel modo i problemi. L'asta è già stata fatta, è necessario soltanto che il governo dia le frequenze agli operatori mobili che sono pronti a fare gli investimenti, quindi lì ci siamo ed è risorse private. E dall'altra parte si sta muovendo, finalmente si sta muovendo lo scenario, perché ci sono attori importanti che si stanno muovendo, cioè Telecom Italia e Fastweb, che hanno fatto questo importante accordo sull'FTTC, che è una tecnologia che stanno adottando anche in altri paesi e che è una tecnologia che probabilmente per i prossimi 10-20 anni è assolutamente sufficiente, perché porterà 40-50 mega a casa degli italiani, quindi è una tecnologia molto potente che già, senza portare per forza la fibra a casa degli italiani, però può essere molto utile e può effettivamente coprire un gap importante. Dall'altra parte c'è Metroweb con F2i che stanno facendo un lavoro importante di gestione della rete in fibra in FTTH, cioè la fibra a casa delle persone a Milano, e hanno anche loro intenzioni di estendersi ulteriormente, quindi è probabile che nelle aree a maggiore densità di popolazione avremo la fibra a casa dei clienti e nelle aree a minore densità di popolazione avremo la fibra nell'armadietto e poi si continuerà col rame. In più c'è Cassa Depositi e Prestiti, a sentire da leggere i giornali, che sta trattando con Telecom Italia per investire, per entrare nella rete di Telecom Italia e aumentare in maniera consistente gli investimenti nell'NGN. Quindi io devo dire che dal punto di vista dello scenario complessivo, oggi finalmente possiamo dire che ci stanno scaldando i motori, insomma le cose staranno per partire. Sicuramente le norme servono per rendere più facili questi investimenti, perché poi bisogna scavare, bisogna entrare nei condomini, quando le aziende di telecomunicazioni arrivano nei condomini spesso sono fermati dagli amministratori perché non vogliono far salire sulla fibra, insomma ci sono una serie di ostacoli che oggi devono essere rimossi proprio nell'operatività per rendere questo rollout veloce. E poi in alcune zone effettivamente a fallimento di mercato un aiuto dei fondi strutturali europei può essere molto utile. Ci sono, quindi sono risorse che possono essere utilizzate, però ecco, diciamo che non è la condizione sine qua non, insomma, ecco, sì. È una cosa importante, però nel frattempo si può partire anche senza legge. Sì. Le faccio un'ultima domanda su questo punto, visto che ci sono alcuni esperti, alcuni protagonisti del settore che fanno una ipotesi per sia accelerare ma anche per, diciamo, creare una forma neutrale di questa rete, cioè che sia Cassa Depositi e Prestiti, perché sappiamo che lo Stato centrale non ha soldi, la pubblica amministrazione non ce li ha, Cassa Depositi e Prestiti invece che lanci una società per costruire un network di prossima generazione, quindi guardando ai prossimi 20, 30, anche 50 anni. Lei come vede questa ipotesi? Ma io vedo che il network di nuova generazione è uno, non ci saranno, parliamo di rete fissa, non ci saranno più network in concorrenza tra di loro, quindi i piani industriali delle diverse aziende devono convergere, come oggi stanno convergendo Fastweb e Telecom Italia. Se Cassa Depositi e Prestiti ha delle risorse per accelerare, già che Telecom Italia ha una struttura finanziaria che non le consente un processo di investimento così rapido, ma deve ovviamente adeguare i suoi investimenti sulla capacità di gestione finanziaria dell'azienda. Se Cassa Depositi e Prestiti ha la possibilità di far questo con lo scorporo della rete e di incentivare e accelerare questo processo sicuramente è una cosa buona. Poi ci sono tantissime variabili, ovviamente, perché poi questa rete deve essere una rete aperta, deve garantire comunque la concorrenza, e quindi insomma le variabili tecnologiche, oltre che di governance dell'azienda, sono molto importanti. Ovviamente la Agcom dovrà avere una voce in capitolo seria su questo ed essere il vero interlocutore di questa operazione, però io credo che questo può essere sicuramente un contributo, insomma. Digital News. Alcune notizie della settimana: mentre iPhone 5 è in vendita in un primo gruppo di paesi, arriverà fra una settimana anche in Italia e registra un nuovo record di ordini, la Apple deve però incassare una brutta figura per le nuove mappe disponibili da mercoledì assieme all'aggiornamento del sistema operativo iOS 6. La soluzione proprietaria di Apple, realizzata in collaborazione con TomTom, è piena di imprecisioni ed errori un po' in tutto il mondo. La Apple dice che migliorerà il servizio, ma per ora la novità sfigura nei confronti di Google Maps e di Nokia Maps. Digital News. Così come aveva fatto Nokia, anche HTC ha scelto New York per presentare i nuovi smartphone con Windows Phone 8. Sono due modelli che saranno disponibili a novembre a prezzi ancora da definire e che si ispirano, basta guardarli, almeno nel design, ai nuovi Lumia di Nokia. Sono telefoni molto colorati. A proposito di Nokia, attendiamo a questo punto per la nuova serie Lumia di sapere quando usciranno i nuovi prodotti e anche a che prezzo. La Boeing ha annunciato che entro la fine dell'anno prossimo tutti i nuovi 747 e i 777 saranno realizzati per permettere nativamente l'utilizzo di telefoni cellulari durante i voli. Il nuovo e neonato 787 è già abilitato a questo servizio. Oggi tutti gli aerei commerciali che permettono l'utilizzo del cellulare a bordo sono modificati con apparecchiature posticce e non sono nativamente abilitati. Libero lancia la propria offerta cloud all'interno della mail grazie ad un accordo con SugarSync, che offre 5 giga di spazio per fare il backup, sincronizzare foto, musica, video, eccetera. Ultima notizia importante: la Corte di Cassazione ha stabilito che per i notiziari web e i blog non c'è alcun obbligo di registrazione al tribunale come testata giornalistica. Il caso si riferisce a quello di Carlo Ruta, autore di un blog che era stato condannato per il reato di stampa clandestina. Noi ci fermiamo, ci sono le notizie di GR24, riprendiamo tra poco per chiamarci. Il nostro numero verde 800240024, a tra poco. 2024. Riprende 2024, questa è la puntata del 22 settembre. Io sono Enrico Paglierini, con noi c'è Carmelo Lauricella che si occupa della parte tecnica. Oggi ci aiuta in regia anche Nadia Zammitti. Il nostro numero verde per chiamarci è 800240024. Adesso nella seconda parte parleremo di banda larga, di broadband, di fibra ottica, di cose che stanno succedendo nel mondo e succederanno presto anche nel nostro paese, magari lentamente e soprattutto in alcune aree per iniziare, ma ci sono alcuni fenomeni che spingono verso l'adozione di banda molto larga. Prima di iniziare con il nostro approfondimento, vi ricordo che ripartito il premio WWW del Sole 24 Ore, che premia la creatività digitale italiana. Per iscrivere il vostro sito internet andate su premio.ilsole24ore.com. Oltre al numero verde potete scrivere anche agli sms 349-238-6666 sulla nostra pagina Facebook o anche usare Twitter, che io cerco di fare con parsimonia durante la trasmissione perché poi mi distrago. L'abbiamo conosciuto poco fa, Domenico Di Mola, CTO, Chief Technology Officer, quindi responsabile delle tecnologie di Uplink, che oggi è nostro ospite. Abbiamo anche approfittato del fatto che tu, Domenico, sei, diciamo, di passaggio in Europa. Sì, sono stato ad Amsterdam per un workshop, il principale workshop europeo sulle tecnologie, ECOC, che ormai si tiene da circa 20 anni ed è itinerante. È stato a Torino circa, non ricordo se 2 o 3 anni fa, dove ho fatto una presentazione a un market focus a proposito dello sviluppo della banda larga e delle prospettive della banda larga, quindi sono in tema, non solo di passaggio. Esatto, questo è un tema di cui parliamo spesso a 2024, ma soprattutto è un tema che io ritengo fondamentale per lo sviluppo del paese. Ma quando parlavamo pochi giorni fa, tu dicevi non solo è un tema quello dello sviluppo di internet, della diffusione di internet, della crescita della capacità di queste reti, non è solo un problema economico, ma anche un problema sociale. Che cosa intendi dire? Sì, rispondo alla tua domanda, poi se tu sei d'accordo vorrei condividere anche un po' di dati relativi allo sviluppo e alla diffusione della banda larga. Ma comunque è un problema sociale, perché di fatto noi che cos'è la banda? Iniziamo. La banda è un'unità di misura, no? Misura la tua capacità di trasmettere per unità di secondo. E fino ad oggi abbiamo misurato quanti megabit al secondo noi eravamo in grado di trasmettere. Questo è tipicamente un'economia dei servizi. Noi stiamo, e l'internet sta evolvendo in un sistema che è di contenuti e di informazioni, quindi non è più la misura di quanti megabit al secondo sei in grado di trasmettere, ma come li trasmetti, qual è la qualità, quali sono i contenuti che viaggiano, e la rete deve essere in grado di riconoscere questi contenuti, deve essere in grado di selezionare, perché ciascun contenuto necessita una qualità, l'utente pretende questa qualità, quindi ecco l'esperienza, cioè non è più l'utente che ha accesso ad internet, però di fatto non misura la qualità dei contenuti. È un utente che accede ad internet, ma che ha necessità di avere qualità nei contenuti e di riconoscere questi contenuti. Quindi l'esperienza della banda determina sostanzialmente un cambiamento di come ci si propone, di chi ci propone questi contenuti e anche della rete. Senti, ti faccio subito una domanda per sgombrare il campo da alcuni dubbi, visto che anche in Italia, naturalmente, ma è naturale che questo avvenga, gli operatori che hanno il rame, a partire da Telecom Italia, cercano di mungere il più possibile questa infrastruttura, mentre molti esperti del settore dicono no, per guardare al futuro bisogna puntare sulla fibra ottica. Direi che diciamo la domanda è un po'... Tu puoi prendere posizione perché vivi negli Stati Uniti, certo. Ma direi sostanzialmente, credo che l'operatore di cui tu parli non parli in termini strategici, parli in termini di conto economico o diciamo di bilanciamento degli investimenti verso i costi. La fibra ottica, se posso dare un esempio, è un'infrastruttura che è trasparente. È trasparente alla capacità, è trasparente a chi la usa e soprattutto è, se vuoi, un elemento di democrazia di internet. Perché? Perché dà un mezzo a cui tutti possono accedere, di cui tutti possono usufruire con una capacità praticamente infinita. Quindi non c'è un limite a chi deve fornire un servizio o un contenuto che è determinato o dettato da una strategia dell'operatore. Quindi questo indipendentemente dalla tecnologia, ma è proprio un principio, se vuoi, quasi filosofico. Se io ho un'infrastruttura in fibra, chiunque vuole fornire un servizio o provvedere un contenuto su quell'infrastruttura può averne accesso ad un costo paritario. E questo è fondamentale. Questo avviene anche con rame, però tu dici la tecnologia della fibra lo permette meglio. Certo, perché il rame ha una capacità di trasmissione limitata e soprattutto il rame non consente l'accesso a capacità a banda larga perché ha problemi tecnici maggiore. Però uno potrebbe dire, visto che molti operatori dicono, ed è possibile che questo avvenga, che nei prossimi anni con tecnologie che aggiungono capacità a rame che si possono raggiungere 50 megabit, e uno potrebbe dire ma io di 50 megabit ne ho più che sufficienza, direi, perché mi serve un 100 megabit o un gigabit? Ma allora di fatto quello che si è visto attraverso degli studi è che alcune applicazioni e alcuni contenuti sono limitati dalla banda e dalla capacità di banda. Quando noi parliamo di 30 o 40 o 50 megabit, parliamo di capacità media, cioè non riusciamo ad avere l'esperienza della banda. Di nuovo, è importante, l'esperienza della banda è un'esperienza che deve essere in inglese anywhere, anytime, ovunque e in ogni momento. Se io ho un mezzo che ha una capacità limitata e la devo distribuire su multipli utenti, multipli contenuti, e poi quando parleremo di internet delle cose, su miliardi di potenziali oggetti collegati, il limite è già evidente. E quindi il rame non è il futuro, il rame è una scelta tattica dettata da condizioni economiche che sono chiarissime, non è una scelta strategica, certo. Quindi non si contesta il conto profitti e perdite dell'operatore A piuttosto che dell'operatore B. È un problema di visione strategica ed sì. È chiaro che non la può fare un singolo operatore, è un problema di paese. E in questo contesto, se tu vai a vedere i dati statistici, quei paesi che hanno avuto investimenti in fibra sono quei paesi che oggi hanno la maggiore capacità disponibile. E ti voglio dare solo un dato. Mondialmente, i primi tre paesi al mondo per banda disponibile, quindi capacità di picco, sono Hong Kong, che ha circa 43.3 megabit al secondo e cresce del 25% all'anno, il Sud Corea che ha 47.8%, il Giappone che ha 39.5%. Il primo paese europeo è la Romania con 38.8, gli Stati Uniti sono all'ottavo posto con 28.7 e, se non sbaglio, la Germania, che è il primo paese europeo, è circa al quarantesimo posto. Ti fermo un attimo, vorrei sentire Elio che ci telefona da Trento. Buongiorno Elio. Buongiorno, mi presento, io sono il direttore generale del Consorzio Elettrico di Storo. Storo è un piccolo centro del Trentino e noi abbiamo circa 1500 utenti collegati in fibra ottica. Collegati in fibra ottica significa con l'ultimo miglio, la fibra ottica arriva in casa, quindi abbiamo una decente esperienza in materia, credo sia l'unico paese d'Italia. Il primo dicembre del 2010 abbiamo collegato tramite la tecnologia GPON, che credo il dottor Di Mola, che ci sta ascoltando, conosca bene, il primo utente residenziale in Italia. Ho ascoltato con interesse quello che stai dicendo, vorrei porre un paio di problemi. Allora, il primo problema è di tipo economico, nel senso che stendere fibra ottica costa circa 50-55 euro a metro e il valore di un utente in termini di redditività, di cash flow eccetera, è un utente telefonico in Italia vale sui 500 euro. Quindi c'è un primo gap di tipo economico, ovvero non è redditizio investire in fibra ottica. Un secondo problema è che ad esempio la fibra ottica si può far passare, noi abbiamo fatto in questo modo, attraverso i cavidotti che conducono l'elettricità. Io mi sono trovato l'anno scorso ad avere a che fare con un'azienda molto grande quotata in borsa, in cui ho chiesto la disponibilità di un tubo nel loro cavidotto. Sono cascati dalle nuvole. Ecco, per poter infrastrutturare l'Italia in fibra ottica, io ritengo che oggi l'investimento in fibra ottica sia pari all'investimento che è stato fatto nelle autostrade in Italia negli anni 50. Che cos'è che si può fare secondo voi per in un certo senso anche obbligare le aziende che hanno cavidotti per la distribuzione dell'elettricità a mettere a disposizione di chi vuole infrastrutturare il loro cavidotto in maniera tale che si possano portare, che si possano stendere le dorsali? Perché se non si risolve questo problema, nessuna azienda che persegue un ritorno economico avrà mai convenienza ad investire in questo settore. Chiarissimo. Elio, rimanga in linea, adesso ci sono le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, poi riprendiamo. 2024. Adesso richiameremo Elio che ci telefonava da Trento, che ci raccontava questa esperienza interessante. Vi ricordo che tra poco vi regaleremo un software di riconoscimento vocale. Come sapete, da una settimana abbiamo anche questo appuntamento all'interno di 2024. Vi ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarlo, è 800 24 0024. Ora do una risposta per quanto riguarda il problema di utilizzare infrastrutture già esistenti per far passare i cavi in fibra ottica. Qui ci sono due problemi, uno normativo regolamentare, l'altro culturale, perché se io fossi una pubblica amministrazione soprattutto non vedrei l'ora che un operatore stenda fibra ottica. Invece mi risulta che ci siano un sacco di pubbliche amministrazioni che cominciano a mettere un sacco di paletti tra le ruote degli operatori che vogliono fare questa infrastruttura. Quindi il problema culturale è un problema da risolvere, ma questo non vale solamente per la fibra ottica, vale per la tecnologia in generale e anche per tante altre cose. Poi c'è un problema di conto economico e qui si apre un dibattito molto complesso, perché ci sono degli operatori, degli esperti che dicono che invece un'infrastruttura in fibra ottica si possa ripagare in pochi anni se buona parte dei clienti viene in qualche modo fatta transitare su questa infrastruttura. Elio, le posso chiedere chi ha pagato questa infrastruttura che collega 1500 utenti? Allora glielo spiego subito. La nostra forma è una forma consortile, quindi essendo una società cooperativa noi non siamo obbligati alla distribuzione, noi non possiamo distribuire utili. Quindi l'azienda nasce come consorzio elettrico, quindi sostanzialmente c'è uno sconto sulla bolletta elettrica abbastanza consistente. Parliamo di almeno una bolletta all'anno, una su sei. Alcuni di questi proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica sono stati investiti sotto forma di servizi per i soci. I soci in totale sono circa 3.005, di cui però solo 1.500 fruiscono del servizio di internet, telefono e televisione, perché nella zona dove siamo la televisione non si vede, per cui se non transita attraverso la cosiddetta IPTV non si vede digitale terrestre, sì, piuttosto sì. Il segnale analogico. Quindi questi sono i servizi che noi distribuiamo, avendoli pagati gli utenti stessi, insomma, sostanzialmente fruendo di uno sconto minore sulla bolletta elettrica. Chiaramente è una situazione, secondo me, abbastanza particolare in Italia, però di fatto è realizzata, cioè se lei viene a Soro, va a casa dell'utente, ha i 70-80 mega di misurandola in mega, e sono d'accordo che non si possa solo misurare in mega, però l'utente ha i 70-80-100 mega di collegamento in banda. Sì. Allora rimanga pur sempre in linea, ma a proposito di quello che dicevo prima, che bisogna fare un passaggio culturale, perché chi possiede queste infrastrutture, e soprattutto e spesso le possiedono le pubbliche amministrazioni, devono essere contente di far passare la fibra ottica. Ma poco fa è stato nostro ospite Stefano Parisi, che è presidente di Confindustria Digitale, che esprimeva giustamente, noi condividiamo questa preoccupazione, un ritardo nella approvazione di tutte le normative che vanno sotto il cappello di Digitalia, questo decreto che dovrebbe mettere in pratica, lanciare anche in Italia l'agenda digitale. Allora, all'interno di queste norme dovrebbero esserci anche norme per facilitare la posa di infrastrutture di nuova generazione. Mi dice un'ultima cosa, Elio, i suoi clienti, ma voi stessi, inaugurando questa infrastruttura, che tipo di benefici avete visto? Cioè, tutti dicono... Le dico, il primo beneficio ovviamente è quello per esempio della televisione, sarà banale, ma una popolazione prevalentemente anziana che non può vedere la televisione è un problema. Secondo discorso, appunto, disporre di un collegamento tutto sommato economico, perché i costi sono equivalenti a quelli dei normali, siamo allineati ai normali operatori come costo mensile e flat. Quindi di potersi collegare ad internet dove, in una zona dove la DSL funziona molto male. Secondo me il discorso più interessante è lo sviluppo che si può avere, perché per esempio soprattutto in zone rurali, che ne so, poter seguire corsi universitari online piuttosto che favorire insediamento di aziende di servizi per le quali la sistemazione logistica non è importante. Banalmente, aziende che fanno fatture per aziende che sono lontane, disponendo di collegamenti in banda larga, possono svilupparsi anche in zone logisticamente disagiate, come la zona dalla quale la sto chiamando, insomma. Molto bene, io la ringrazio per essere stato con noi e anche per questa esperienza, che conoscevo poco, conoscevo poco, quindi ha fatto bene a chiamarci. Tra l'altro Elio ci chiama dal Trentino, dove è stata lanciata, ne abbiamo parlato, 2024, una iniziativa che attualmente è sotto osservazione di Bruxelles, ma che nei prossimi mesi dovrebbe sbloccarsi, un'iniziativa che si chiama Trentino NGN, per costruire in una zona, come dicono gli esperti, non a fallimento di mercato ma a media profittabilità, una rete di prossima generazione, e in quel caso c'è un intervento molto pesante della pubblica amministrazione. Infatti questo è un altro pezzo del dibattito, cioè chi deve pagare questa infrastruttura? C'è chi dice che debba intervenire pesantemente lo Stato, c'è chi dice che lo Stato non ha soldi, allora c'è chi tira in ballo Cassa Depositi e Prestiti. Ad esempio ci hanno segnalato, e noi segnaleremo tutti i programmi politici che parlano di questo tema, ci è stato segnalato e abbiamo verificato che Renzi, nelle idee che ha proposto in vista delle primarie del PD, dice esplicitamente che è necessaria un'infrastruttura pubblica e deve intervenire Cassa Depositi e Prestiti, anche perché stiamo parlando, se lo guardiamo a livello nazionale, di un'infrastruttura che può costare 12, 15, 20 miliardi, che se confrontata con altre infrastrutture non rappresenta una cifra elevata. Domenico, vuoi aggiungere qualche cosa? Altrimenti io ho una domanda sui servizi che spingono e spingeranno verso l'adozione di queste infrastrutture che rispondono poi alla domanda: che cosa ce ne facciamo della fibra e della banda larghissima? Ma direi che sostanzialmente non solo voglio supportare ma applaudire all'iniziativa. Credo che questo sia in linea con quelle che sono le strategie dei paesi più avanzati, non solo Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, ma anche i paesi del nord Europa. Non dimentichiamo che i paesi del nord Europa sono tra quelli che hanno una maggiore penetrazione della banda larga e della fibra ottica in tutto il mondo. Quindi ci sono dei dati che supportano questa analisi. Sì. Al di là degli investimenti. Torno alla domanda, per farci Per farci che cosa? Sostanzialmente uno dei temi che io avevo ho iniziato ad introdurre, di cui ho anche parlato ad Amsterdam, e c'è un cambio della strategia dell'uso di internet. Internet era un territorio dei fornitori di servizi, quindi le telecom, adesso è un territorio dei fornitori di contenuti, cloud computing, broadband mobile, fixed, servizi di internet, quindi nuovi attori, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, quindi c'è una varietà e una differenza di nuovi contenuti che stanno arrivando e verranno messi a disposizione degli utenti, i quali non solo richiederanno la banda larga. Fammi degli esempi, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, per esempio, Google ha lanciato negli ultimi mesi una serie di iniziative che hanno la sigla AAS, che sta per As a Service, e la X che c'è davanti sta per infrastrutture, infrastructure, sta per software, sta per platform, sta per... Traduco. Allora, oggi noi siamo abituati a utilizzare il software sul nostro computer. Questi servizi ci forniranno la stessa esperienza d'uso, ma con software che non risiede sulla nostra macchina, con una serie di vantaggi innumerevoli: disponibilità ovunque, maggiore sicurezza, maggior aggiornamento, eccetera, eccetera. Pensiamo se tutto questo viene fornito a delle aziende con grande richiesta di capacità di elaborazione dati. Questa elaborazione viene demandata, ad esempio, al cloud computing. Ma anche gli utenti dell'azienda, quindi migliaia di persone che accedono a questi servizi attraverso o il tablet, o attraverso il computer, o attraverso tutta questa serie di apparati, i quali devono essere comunque continuamente sincronizzati. E quindi potete immaginare qual è la rete di interconnessione di dati e di scambio dati, di nuovo di contenuti, che devono mantenere un'alta qualità. Cioè il problema della banda larga è un problema anche di qualità del servizio che viene fornito. Cioè non è possibile che l'utente, per scaricare una pagina web, debba aspettare che la rete sia scarica, perché questo è l'approccio tipico dell'operatore di servizi. Io ti garantisco un servizio, ti garantisco dei megabit, ma non ti dico se quei megabit che stai scaricando sono di qualità. E quindi questo è il problema fondamentale. La banda larga assolve a questo problema fondamentale: la qualità del servizio e l'esperienza che l'utente di business o personale fa di questo servizio. Quindi questo è un elemento critico, importante, da importante. Sono le 16:29. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Numbers 2024. Numbers. Abbiamo parlato della relazione annuale che è stata pubblicata questa settimana dall'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Allora, è una relazione, come succede ogni anno, molto ricca di dati, molto ricca di numeri. Se andate sul sito dell'Agicom potete scaricare una lettura che durerà per qualche giorno, anche per qualche settimana. Ma vi facciamo una domanda: quante sono le SIM attive in Italia, dato aggiornato alla fine del 2011, quindi dato che sicuramente sarà cresciuto? Allora, chi risponde esattamente può vincere una confezione di Dragon Naturally Speaking, il software di riconoscimento vocale di Nuance. Vince il primo ascoltatore che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente. Allora, vi diamo tre soluzioni. Quante sono le SIM attive in Italia alla fine del 2011? Secondo i dati pubblicati nella relazione annuale dell'Agicom, 108,525 milioni, 88 milioni e 069, 95 milioni 912 mila. Quindi 108, 88, 95, basta che non vogliamo il numero preciso. Comunque vince il primo che ci chiama al nostro numero verde, quindi non scrivete sms, non scrivete email, perché conta solamente chi chiama il nostro numero verde. A tra poco. 2024. Questo è 2024, vi ricordo che al termine della nostra puntata anche questa versione, quella del 22 di settembre, sarà disponibile attraverso il servizio podcast molto utilizzato da molti dei nostri ascoltatori. Anzi, fate pubblicità, perché questo è un buon modo per riascoltare, per utilizzare la radio, un po' la radio in versione moderna. Giorgio da Verona, buongiorno, benvenuto. Grazie. Io volevo portare il nostro esempio. Ci siamo inventati un attrezzo porta computer che produciamo integralmente nel distretto del mobile della Bassa Veronese, con un network di artigiani. Sì. E grazie ad internet, quindi all'e-commerce, riusciamo a venderlo già in 3 anni in 40 nazioni diverse. Quindi non un metodo, diciamo, commerciale, con grazie all'e-commerce, che ci consente di riuscire a competere pur producendo in Italia, perché adottiamo una filiera corta e perché appunto riusciamo a vendere praticamente da Verona senza muoversi in tutto il mondo. Certo, questo è un esempio. Tutto il mondo servito da vettori, sì, come UPS, DHL, scusate, ho fatto eccetera. Dei nomi. Sì, vabbè, i nomi si possono fare. Questo è un esempio di utilizzo della rete internet. Quello che vogliamo sottolineare oggi non è solamente l'utilizzo della rete internet, che è una cosa che oramai discutiamo da molti anni, è il passaggio da una rete internet così come la conosciamo oggi ad una rete internet molto più evoluta, molto più stabile, molto più capace di trasportare dati, molto più affidabile, che abbia una qualità di servizio molto più stabile e garantita, per passare a nuovi servizi. Allora, naturalmente molti di questi servizi sono ancora poco utilizzati, parliamo spesso di cloud computing, e molti dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando dicono: ma che cosa succederà nel futuro? Molte delle cose sono effettivamente difficili da immaginarsi, ma la cosa importante è che si deve anche trasformare la nostra cultura, perché stiamo parlando di un passaggio generazionale, tecnologico e strategico che coinvolge l'intero paese, e o ci prepariamo e cominciamo a cambiare per costruire questa nuova infrastruttura, oppure siamo perdenti dal punto di vista competitivo a livello mondiale? Perché, Domenico, stiamo parlando di cose che non si fanno in 2-3 anni. No, sono investimenti di medio-lungo periodo in questo senso, perché di nuovo non è semplicemente l'infrastruttura e l'architettura dell'infrastruttura, forse è una parola difficile, ma è come tutti questi differenti servizi e le loro performance vanno ad integrarsi su degli apparati, perché poi stiamo parlando di hardware. Sì, quindi, forse l'esempio più semplice da comprendere è l'autostrada. Sì, quando diciamo, è stata costruita le prime autostrade, probabilmente pochi pensavano di vedere il traffico che vediamo oggi sulle strade. La stessa cosa capiterà sicuramente a ritmi sicuramente molto più veloci su internet. Abbiamo parlato di cloud computing. Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno, io sono uno studente, diciamo, ormai ho finito, non giovanissimo, ho 50 anni, però ho deciso di fare la scelta di studiare le nuove tecnologie nell'ambito della comunicazione, e in pratica la mia tesi verteva sul cloud computing. Ho avuto diverse difficoltà anche nel trovare informazioni, libri, tutto quanto può riguardare, al di là di internet, che si trova di tutto e di più, il cloud computing. Comunque la considerazione da fare, secondo me, anche che c'è un gap proprio culturale nella nostra nazione nei confronti degli altri paesi. Non so, vedendo i dati dell'agenda digitale europea che avete citato prima, si nota proprio come il nostro paese ha delle eccellenze. Esempio, siamo il paese che ha un numero più grande di telefonia mobile rispetto di consumo di telefonia mobile rispetto al resto dell'Europa. Però per quanto riguarda la banda larga siamo fermi ai 2 megabit quando ci sono, rispetto ai 7 e ai 30 o ai 100 della Gran Bretagna. Ecco, volevo sapere voi, la considerazione è quella di farsi che c'è un problema di un gap culturale importante, che la gente non conosce, non so, fenomeni come il cloud computing, oppure sono tutte e due le cose insieme? Io faccio fatica a trarre delle conclusioni precise. Poi le motivazioni, quelle sono tantissime. Sì. Riccardo, grazie per averci chiamato. Beh, non è facile rispondere. Io penso che la difficoltà maggiore sia quella di comprendere quanto questa trasformazione culturale, quindi la spinta verso sia l'utilizzo di internet, ma anche un aumento delle prestazioni delle nostre infrastrutture, ci possa restituire in termini di competitività. Tra l'altro, in un paese che ha una grande creatività, quindi quando si parla di creatività ricordo sempre con piacere una persona che mi dice spesso che il software è creatività, ma immagino poi che anche nel tuo lavoro di CTO valga molto, certo, la competenza ma anche la creatività. Ma la creatività è... Tu che stai in Silicon Valley, rincuorci. Guarda, la creatività è l'atto in cui tu ti rendi conto che non sei più competitivo, e quindi c'è qualcuno che sta facendo meglio di te, e c'è sempre qualcuno che tenterà di fare meglio di te, e tu devi pensare in anticipo, devi cercare di ricreare nel tuo modo di pensare e di agire quello che sarà l'evoluzione del tuo business. E quindi se non sei creativo non hai nessuna chance di successo. Sì. Quindi la creatività è un fattore di competitività. Senti, un altro elemento che mi piace sottolineare è che la diffusione, la costruzione di un network in fibra ottica di prossima generazione serve anche per il cosiddetto mobile broadband. Allora, mobile broadband è l'utilizzo di internet in mobilità. Abbiamo sentito che l'AGCOM ha certificato che oramai gli italiani navigano di più su internet rispetto all'utilizzo degli SMS, anche perché spesso gli SMS per i più giovani sono stati sostituiti da WhatsApp e altri servizi di messaggistica in tempo reale. E a volte c'è chi chiama, scrive, dice: ma perché dobbiamo mettere la fibra ottica? Utilizziamo WiMAX, utilizziamo LTE, eccetera, eccetera. Questo è il problema della rete di accesso. La rete d'accesso sarà diversificata in fibra, con il mobile. Il problema è questi media e metodi di accesso terminano un chilometro dopo il punto di connessione, l'antenna, la casa dell'utente. Cosa succede il chilometro successivo? È il problema della fibra, cioè maggiore sarà il numero di punti di accesso, tecnologie di accesso ad alta capacità, quindi broadband, maggiore sarà l'accesso degli utenti, quindi la crescita del mobile broadband. Abbiamo oggi 6 miliardi di utenti broadband e crescono, fanno crescere il traffico, lo raddoppiano ogni anno. Siamo circa a 700 petaflop, petabyte, scusa, al secondo per mese. Questo è il traffico. Quindi la fibra è quella che tutti chiamano la rete di backhauling, cioè è quella rete di infrastrutture che raccoglie quel traffico e lo distribuisce. Quindi tu dici, se l'antenna con la telefonia di terza generazione oggi o di quarta generazione non è collegata a un network in fibra ottica potente, serve a nulla. Voglio anche dirti di più, sì. È peggio, perché non sarà possibile vedere un video peer-to-peer, perché ci saremo problemi di latenza, cioè il ritardo della trasmissione. La rete deve assomigliare sempre di più a quel concetto di rete vocale. Tu non potevi accettare che la tua telefonata arrivasse con un eco, arrivasse in ritardo al tuo utente. La rete dei contenuti deve avere la stessa capacità e la stessa performance, quindi latenza bassa, disponibilità, qualità di servizio. La fibra ottica è l'unico strumento che oggi conosciamo tecnicamente, quindi indipendentemente dalla filosofia, è oggi l'unico strumento tecnicamente utilizzabile per consentire, per dare delle risposte tecniche a basso costo e, voglio ricordare, a basso consumo energetico, perché di nuovo io non mi stancherò mai di dirlo, noi abbiamo un problema di consumo, internet è il più grosso consumer di energia al mondo, consuma più degli aeroporti, cioè consuma internet più consuma di più di tutto il resto. Internet è internet penso che assorba circa il 10-12% dell'energia mondiale prodotta, che è un numero spaventoso. Sono centrali nucleari che vanno per far andare internet. Adesso ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, poi quando riprendiamo vogliamo fare un passo in avanti, visto che abbiamo citato tra le cose di cui vogliamo parlare e alle quali dobbiamo prepararci, e questo è uno dei problemi del nostro paese, che fatica a prepararsi per cose che stanno arrivando, quindi la difficoltà di avere una visione nel medio e lungo periodo. Ecco, ci dobbiamo preparare ad una cosa molto affascinante, di cui si parla da almeno 13 anni, ma che sta arrivando, forse esiste già, si chiama Internet of Things e ne riparliamo tra poco. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Vi ricordo anche, ma devo dire che oggi l'ho usato poco, ci siamo poco distratti dalla nostra trasmissione, il nostro indirizzo Twitter, se volete seguirmi, è @Pagliarini, oppure anche quello di 2024, con il quale vi avvisiamo di quello che facciamo in onda, @2024_R24. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi abbiamo domandato quante sono le SIM attive in Italia a fine 2011, secondo i dati pubblicati nella relazione annuale della Autorità per le Comunicazioni. 108 erotti milioni, 88 erotti milioni, 95 milioni. Daniele da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, salve. Allora, tu hai risposto esattamente, secondo te quante sono? Sono 95 milioni dispari. Eccetera, eccetera. No, non mi ricordo i dispari. Sono 95 milioni 912 mila. Può darsi che ci sia anche qualche altro diciamo numero oltre i 912.000, ma l'autorità ce li dà in migliaia i numeri. Daniele, saresti riuscito a rispondere senza i suggerimenti? Con certezza no, però che erano intorno ai 90 milioni era risaputo, perché vabbè, per lavoro mi occupo di mercato delle telecomunicazioni, dato è abbastanza variabile, oscilla spesso con l'andamento sinusoidale ma asintotico ormai, ed è circa diciamo tra i 4/3 e i 5/3 della popolazione a seconda del periodo. Sì, che poi molte di queste SIM poi sono macchine, giusto? Sono macchine, moltissime, man mano che vengono aggiornate le statistiche risultano poi non attive. tant'è che il numero di SIM è molto più alto, quello di SIM vendute presenti sul mercato, il 90 milioni circa, ora sono 95, sono considerate attive perché effettuano almeno una telefonata ogni tot periodo di tempo. Bravissimi, infatti queste sono SIM attive. In realtà ci sono SIM tantissime attive, altre SIM vendute, ma poi dormienti, che dopo un anno scadono e vengono disattivate. Esatto, io a casa penso di avere 3 o 4 di SIM non attive. Daniele, di che cosa ti occupi in modo particolare? Io lavoro presso una multinazionale che fa consulenza alle imprese, in particolare nel mondo delle telecomunicazioni. Delle telecomunicazioni. Bene, allora tu riceverai a casa questo software di riconoscimento vocale di Nuance Dragon Naturally Speaking. Grazie per aver chiamato e soprattutto grazie per seguire 2024 e Radio 24. A presto. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Molto bene. Adesso mettiamo una bella base, Carmelo. Perfetto. Ah. Dunque, è molto interessante quello che abbiamo detto, cioè che alcune di queste SIM sono collegate in realtà a macchine. Dovete sapere che ad esempio anche le nostre antenne che trasmettono il segnale di Radio 24 hanno dei sistemi di telecontrollo che ci dicono se l'antenna è attiva, qual è la potenza emessa, se si è spenta l'antenna, c'è stato un temporale, è venuta meno l'energia elettrica, eccetera, eccetera. Questo è un piccolo esempio di Internet of Things. Nel 1999, Kevin Ashton, un pioniere nell'uso delle tecnologie, usa per la prima volta la definizione Internet of Things, la Internet delle cose, dove le cose sono sensori come i chip RFID. L'idea che sta dietro alla Internet delle cose è che la rete sia connessa al mondo fisico o viceversa attraverso sensori presenti ovunque e che queste cose diventino identificabili attraverso un indirizzo IP e che diventino intelligenti, capaci cioè di elaborare dati e reagire autonomamente. Mailbox, you have new message. Nelle industrie, queste terminazioni possono diventare parte attiva nel processo di business. I sensori presenti nelle strade e sulle auto diventeranno parte del sistema di infomobilità. I sensori sparsi in un bosco manderanno un allarme in caso di incendio e così via. Lo sviluppo della Internet of Things è strettamente legato alla diffusione ubiqua di Internet e all'aumento di banda sia su rete fisica che su rete mobile. Domenico Di Mola, per quale motivo è necessaria un'infrastruttura di rete nuova, quindi molto più potente, molto più affidabile per rendere reali tutte queste cose che, devo dire, non sono molto lontane? Abbiamo fatto l'esempio prima della radio che telecontrolla le nostre antenne, ci sono già un sacco di sensori in giro per il mondo che sono collegati, però siamo ancora all'inizio. Sì, siamo ancora all'inizio. Abbiamo appena detto che ci sono circa 6 miliardi di connessioni broadband mobile, probabilmente ce ne saranno altri circa 4 miliardi, 4 e mezzo di connessioni fisse nel futuro. C'è una buona notizia che forse va condivisa: siamo passati dal mondo IPv4 al mondo IPv6. Cosa vuol dire? Penso che tutti gli utenti sappiano che a ciascuno oggetto fisico è associato un indirizzo IP che, se volete, come in America la Social Security Card, non ti lascia mai. Come il codice fiscale. O come il codice fiscale, no? Quindi ciascun oggetto che si collega in rete ha un suo indirizzo fisico, che noi chiamiamo IP. L'IPv4, che è questo database, si era esaurito. Adesso abbiamo l'IPv6, che è un database... Finito i codici fiscali, abbiamo dovuto allungarli, quindi è già per esempio, questa è già un'evoluzione della rete, perché tutta l'architettura di rete ha dovuto evolvere a questo IPv6 che contiene centinaia di miliardi di indirizzi ormai e quindi potrà seguire la storia di Internet probabilmente per i prossimi 30, 40, 50 anni, non lo so, però è già un primo passo verso Internet delle cose. Questo quindi vuol dire che ad esempio anche questo microfono, il mio mouse, i fogli di carta no, però ma chissà, magari anche i fogli di carta, ogni cosa... Quasi ogni cosa sarà collegata a Internet. Può avere un suo indirizzo Internet. Può avere e quindi può essere localizzata, può trasmettere i suoi dati nella rete, ma soprattutto attraverso l'evoluzione di Internet delle cose, la rete diventa intelligente e interattiva. E queste, diciamo, se vogliamo sintetizzare che cos'è Internet delle cose, è una rete intelligente interattiva. Facciamo un esempio per capire. Google, che non è il più grande produttore di automobili al mondo, come sapete, sta studiando ed investendo centinaia di milioni di dollari per l'automobile del futuro. Questa automobile sarà in grado di operare in maniera intelligente e autonoma rispetto al conducente e allo stato del conducente, rispetto alle situazioni stradali, attraverso un sistema interno collegato con una rete che è in grado di comunicare in tempo reale una serie di dati estratti dai suoi sensori e mandati, quindi comunicando ai suoi sensori, in modo tale che questa macchina è in grado di interagire con il suo mondo circostanze. Quindi, sì, di nuovo, esperienza attraverso internet. Esatto, questo è un esempio importante. Esatto, posso solo aggiungere un altro, sì, dettaglio. Un altro elemento è, c'è un esperimento in un ospedale americano a Los Angeles, dove i pazienti sono dotati di un apparecchietto, un tablet, e possono seguire l'evoluzione delle loro cure, dei loro tracciati, attraverso questo apparecchietto collegato con le macchine di esame, e quindi avere in tempo reale, e soprattutto i familiari poter avere una situazione del paziente caro senza la necessità di dover, sì, fare chilometri per andare a visitare tutti i giorni il paziente. È una rivoluzione di quello che sarà la società del futuro. Sì, sicuramente hai citato due campi in cui l'applicazione di queste tecnologie sarà più forte, più evoluta, quello della sanità e anche quello del trasporto. Anzi, direi che forse sul trasporto ci stanno investendo moltissimo. Moltissimo. Anzi, di auto intelligenti, di traffico intelligente parleremo presto, perché ci sono alcune cose interessanti da dire. Io ringrazio Domenico Di Mola per essere stato con grazie noi. Tu torni negli Stati Uniti quando? Domenica mattina. Cioè domattina? Sì. Quindi proprio in extremis ti abbiamo, sì, sì, sì, trattenuto. Sì. Bene, ma con piacere. Grazie. Dimmi, abbiamo un minuto, che cosa state facendo di nuovo a Uplink? Stiamo sviluppando uno switch completamente automatico e fotonico, quindi solo fotoni, dalla capacità di 100 terabit. Per metterlo sulle reti in fibra ottica. Per metterlo domani mattina sulle reti in fibra ottica. Domani mattina, non... Quindi è pronto quasi. Sì, sì. Bene, grazie, a presto, buon viaggio. Grazie, grazie a tutti, saluti. E grazie anche a Nadia Zammitti che ci ha aiutato oggi in redazione. Ringrazio anche Anita Panizza, come sempre tutte le settimane ci aiuta la nostra redazione, Carmelo Lauricella che si è occupato della parte tecnica. Io sono Enrico Paglierini, tra poco troverete la versione podcast del nostro programma, torniamo la prossima settimana, e la prossima settimana torna a grande richiesta Gianfranco Giardina nel nostro studio. Il nostro indirizzo di posta elettronica per concludere 2024, quindi 2024, è radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're gone for a